Ho votato per Barack Obama. E lei pensa che Obama possa davvero vincere? I risultati sono... Yeah. Le previsioni sono incerte ancora. Penso che Barack Obama vincerà, perché lui, tanta gente è votata per lui, perché lui vuole portare tanto in cambiamento in America. Allora tanta gente è votata per lui. Speriamo che lui vincerà. Che cosa rappresenta per sé, per lei, per un po' la comunità americana anche di colore, il fatto che Obama possa diventare presidente? Rappresenta che in America è possibile fare tutte cose, tutte le cose è possibile in America. Questo significa che in America è possibile che un povero diventa un ricco domani. L'American Dream. Sì, in American Dream, in America tante gente possono il loro sogno, no? E questo è quello che sono contento, perché quando America sta bene, tutto il mondo sta bene. Quando America sta male, tutto il mondo sta male.